Le note della sigla dell'inno ufficiale dedicato a San Pio X, scritto da Monsignor Marco Frisina ed eseguito ormai più di un anno fa nella chiesa di Riese Pio X, quando ci sono state le prime celebrazioni per questo anno centenario, procede con iniziative sempre più frequenti. Ricordiamo innanzitutto i pellegrinaggi vicariali organizzati dalla diocesi di Treviso, pellegrinaggi che inizieranno con il primo con la prima domenica di Quaresima nel pomeriggio. Tutte le domeniche di Quaresima ci sono dei pellegrinaggi nei luoghi appunto di Giuseppe Sarto. Si inizia il 9 marzo alle 15:30 a Riese per i vicariati di Castelfranco Veneto, Nervesa della Battaglia e Montebelluna. Poi il 16 marzo nella chiesa di Tombolo per i vicariati di Castello di Godego, Asolo e Campo San Piero. Il 23 marzo per i vicariati di Mirano, Noale, Mogliano Veneto. Il 30 per i vicariati di Paese, Spresiano, Monastier e San Donà di Piave. In ogni pellegrinaggio il programma è identico. L'inizio alle 15:30 con la preghiera del Vespro presieduta dal parroco, la predicazione di Monsignor Stefano Chioatto, che è direttore del Centro Studi San Pio X, la preghiera rivolta al santo e il bacio della reliquia. Alle 16:30 benedizione e canto finale e a seguire la possibilità di visitare le memorie locali appunto di San Pio X. Ce ne sono a Riese, a Tombolo, a Salzano e ovviamente nella chiesa cattedrale di Treviso. Questi pellegrinaggi vicariali organizzati appunto dalla diocesi. C'è un altro appuntamento importante, sabato 8 marzo nella chiesa di Riese, un appuntamento musicale, concerto per voce organo col maestro Daniele Carretta dal titolo Verso il XX secolo, il canto solistico sacro nel contesto europeo. Ricordiamo anche il concorso di pittura organizzato dal Museo San Pio X di Salzano, Giuseppe Sarto tra memoria e attualità, per commemorare attraverso i dipinti gli aspetti di spiritualità, carità e impegno civile che hanno caratterizzato l'opera di Giuseppe Sarto nel periodo, negli anni in cui fu parroco a Salzano, dal 1867 al 1875. I lavori vanno consegnati entro il 4 maggio, la partecipazione è gratuita. Trovate i dettagli sul sito del Museo di Salzano, museosanpiox.it. Un'altra iniziativa è invece veneziana ed è in programma sabato 8 marzo. C'è il comitato che ha organizzato le iniziative San Pio X dal Veneto a Roma. Sabato 8 marzo alle 17 la Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia si parlerà della devozione mariana, dei rapporti con gli ordini religiosi e i santi. La conferenza è organizzata dal Centro Culturale Laguna di Venezia. Relatori di quel pomeriggio saranno padre Luigi Borriello, docente di storia della spiritualità e teologia mistica alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma e alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Parlerà di Maria nella vita interiore di San Pio X. Suor Michela Carrozzino, direttrice del Centro Ricerca Opera Femminile Don Guanella di Roma, parlerà appunto dei rapporti tra Pio X e San Luigi Guanella. Padre Angelo Brusco, direttore del Centro Camiliano di Formazione di Verona, docente di psicologia pastorale al Camilianum di Roma e anche alla Facoltà Teologica del Triveneto, parlerà del rapporto tra San Pio X e l'Ordine dei Ministri degli Infermi, i Camiliani. Don Cosimo Semeraro, docente di Storia Moderna e Contemporanea alla Pontificia Università Salesiana di Roma e membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, interverrà sul tema Pio X tra Don Bosco e Giovanni XXIII, linee comparative di storia e spiritualità. L'incontro sarà inframmezzato dal momento musicale curato dal duo Francesco Anese al violino e Andrea Tomasi all'organo. San Pio X, la devozione mariana, ordini religiosi e santi, sabato 8 marzo alle 17 alla Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia. E poi ricordiamo che all'inizio di settembre c'è il pellegrinaggio a Roma con Papa Francesco Francesco il 9 e il 10. Le prenotazioni sono aperte presso gli uffici della diocesi di Treviso, e il 20 agosto è la data dell'anniversario della morte di San Pio X. La celebrazione sarà al parco del santuario delle Cendrole.